Francesco, tu sei? Sì, Marcolino, buonasera, ciao a tutti. Ciao Francesco, mi prima spazzolando ti avevo sentito sul 23 con Gio Maria. Io ero mesi che, quante settimane, comunque un mese e mezzo penso che non sentivo quasi nessuno. Poi nel pomeriggio è entrato Giulio, siamo fatti una bella chiacchierata. Poi è entrato anche un altro amico dalle zone limitrofe di Sassari. Abbiamo fatto anche delle prove con dei baracchini. E così le domeniche a casa, di andare al mare non ho voglia, proprio non me la sento. Forse prossima settimana, se il fisico permette, qualcosina la faccio, ma niente di che. Io sto 3 orette e poi me ne torno. Non ce la faccio a stare dalle 9 di mattina alle 9 di sera come fanno certi, che mangiano lì, ui, per carità. Sono inneschi, stavo notando che la voce era come leggermente vibrata, la faceva di più sul canale 23, era come vibrata appena appena, non so se dipenda poi dall'aiutino, qua si sente un po' meno su questo canale. E per quanto riguarda il caldo invece, prima c'era caldo, anche troppo, poi è scesa intorno ai 27 gradi, a Sassari, e sto parlando di Sassari, si stava già meglio, era ventilato, adesso sta di nuovo salendo, perché io ho detto tra noi ne ho già le balle piene del caldo, alla fine sì il mare è bello, ma stare così, io sono in mutande, sono a casa in mutande, e quei giorni di caldo se fossi stato solo mi sarei tolto anche le mutande. Sono andato a farmi da Ocean Caldo, perché sai cos'è, lì i soffitti sono molto alti, di solito no, con il condizionatore l'aria calda bene o male se ne va più in alto, l'aria fredda dovrebbe scendere in basso dove sono le persone, e evidentemente stanno andando a risparmio, perché se tu avevi letto che Conad ha comprato i supermercati Auchan, quindi probabilmente Auchan così come è adesso sparirà e subentrerà la Conad. Io spero che non diventi solo un negozio di elementari, tipo la Conad di via Gramsci, perché alla fine io andavo da Auchan per tutto, per computer, per tutta la roba elettronica, per il vestiario, per le scarpe, per la roba da bricolage, no? Cioè, oltre che fare la spesa alimentare, lì c'è un po' di tutto. Se invece poi diventa come Conad, e diventa tutta roba alimentare, sì, Conad c'ha un televisore, un paio di cellulari, ma non è la stessa cosa che Auchan. A meno che non rimanga sotto, diciamo, direzione di Conad, ma rimanga come adesso, lì mi andrebbe ancora bene. Intendevi 4G come connessione telefonica, è come il mio, allora non è come la mia. Sì, adesso convengono questi abbonamenti, perché praticamente paghi un fisso e hai telefonate illimitate o quasi, SMS illimitati o quasi, poi nel mio caso sono 30 gigabyte al mese, 30 gigabyte. Perché era una delle prime offerte, era la più economica, e pago, quanto pago? 6,99, quindi 7 euro al mese, e sono 30 giga al mese, volendo ci sarebbe per 2 euro in più, e quindi andrebbe a costare circa 9 euro, avrei 50 gigabyte al mese, perché sai, quando guardi video su YouTube, quando guardi molti video, te li mangia i gigabyte. E mi sono trovato in rare occasioni che arrivavo prima della fine del mese, avevo proprio finito i giga, non potevo più navigare. O rinnovare in anticipo, oppure aspettare la data del rinnovo e ricaricare, capito? E poi con gli smartphone fanno tutto ormai, fanno da macchina fotografica, fanno da navigatore, tutto Vazzini, cose che non fanno. Il caffè ancora non lo fanno, ma tra poco faranno anche quello, vedrai. Ecco, queste nuove tecnologie che stanno uscendo, non dirlo per il scherzo, che sicuramente sarà anche così. Qualche soldo mi ha colpito, Beh, se penso che fino a pochi anni fa si usavano ancora i cellulari a tasti. Io prima degli smartphone mi pare che ho avuto il Nokia N70, di tutti gli altri prima naturalmente, Nokia N70, che aveva una fotocamera di cacca naturalmente. Cioè, per l'epoca era bello, per l'epoca, adesso è una cosa impressionante. E stanno accelerando sempre i fiumi come prestazioni, processori, tutto. E vedrei fra 20 anni dove arriveremo, se riuscirò a vederlo almeno, anche 30 se ci arrivo, a vedere le meraviglie tecnologiche che ci saranno rispetto a oggi. Io te l'appoggio. Oh Antone, e io te la spingo, buonasera, in compagnia di... Oh, non accendevo da un mese e mezzo, Antone, non c'è nessuno a spegnere. In compagnia di Francesco da Ursilo. Vai Francesco per Antonello. Buonasera Antonello, ben sentito il fautore cordiale qua dalla Polenta. È così, caro Marco, è così la situazione. E Romero stanno sempre rinnovando e facendo cose, diciamo, tecniche, diciamo, da tecnologia. Ok, va bene. Perfetto, quindi Antonello a te cambio, dai. Buonasera a tutti, comunque me l'ascoltate dopo tanto. Guarda, due mesi che non entro io. Guarda come genera. Io lo stesso, neanche perché Antonella, la voglia un po' sta calando, di modulare sta calando. E poi c'è stato proprio nulla, vabbè, io non lo lasciavo acceso, accendevo, facevo una spazzolata, nulla, né pomeriggio, né metà serata, né fine serata, nulla, vabbè che estate, la gente sarà alle vacanze, poi figurati a agosto, più che mai. E tu come stai passando il caldo, come stai passando Antonio? Sì, con la ventola, me l'ho presa la corda perché lì sembra che mi avevo preso la ventola quella del coso, della lampada, che hanno pagato a 69 euro, la fava l'aria, allucinata, ma che solo che gli metto la pompetta e l'acqua, in modo che manda delle... E guarda niente, è quella che manda l'acqua a vapore, diciamo là. No, vapore, vabbè, già mi è capito come mai si mette in spiaggia. È la stessa marca, preciso, identico, manca solamente quel flaccone per metterci l'acqua dentro e in pratica mandami l'acqua addosso. Sì, sì, l'acqua nebulizzata. L'ho visto anche nelle stazioni tipo Roma, Milano, quando c'è troppo caldo usano l'aria più l'acqua nebulizzata in modo da rinfrescare le persone. E sarebbe bello, solo che poi alla fine ti bagna troppo dentro casa. Una cosa che sia all'esterno, mentre cammini, ti sposti, ma a casa alla fine ti trovi tutto bagnato. Vai Francesco. Ok, perfetto. Così è la situazione. Va bene, dammi un controllo, Antonio, come sto arrivando lì da te, casa tu ci sei andato lì e quindi ti dovrei arrivare bene. Tanta ripresa Antonio. Lo predici Semi. Sempre il solito Radio 5. Non è aumentato. Vabbè, non sono l'altro, io sono tappato dalla collina che c'è qui a Corso. Via Cavo Felice. Fosse stato 500 metri più su, mi sarei arrivato a fondo scala come minimo. Perché in pratica noi siamo vicini, solo io sono un po' nascosto lì per via la sierra. Può fare che abbia più la stessa, ma va bene. È già un bel segnale, quindi già va benissimo, dai, ok, perfetto, non c'è niente da pretendere. Che tu qua lo schieri sicuramente a San Parigio, a letto e a mezzo, non è che riesci a dirci molto. vabbè, comunque per quello che l'antenna che stai usando, la mia 27 anni, vai benissimo, perché Marco ce l'ha uguale, te l'ho fatta comprare io e funziona benissimo, non ho mai avuto problemi, grazie a Dio, ha sempre funzionato bene, è un'antenna leggerissima, da installare, veloce da piazzare, eccetera, eccetera, capito? Basta saperla pulire ogni tanto di anni, ogni 5 anni, per dire. Qui togli tutto, il lato focalizzato, li metti la vasellina sotto, eccetera, eccetera, l'antenna deve rimanere come nuova, capito? Insomma, io ho le teorie, le teorie non la vuole vedere, e poi verranno spettato, non è ancora via, quindi la testa mia si è rotta, quindi non ho potuto togliere perché crea abbastanza dei problemi. Adesso con la Libia c'è una vermezza circa, quindi parecchiano la selezione numerica al giorno del zero, dovranno più un po' di potenza, saranno un po' questa tenorità, ok, quindi non di più. Cantato e niente, da solo provvisoria questa qua, quando più avanti la cambio via, non mi piace questa, è una terra sicura che mi piace, questa, come diavolo si chiama, la energy, sì, non mi piace, scatta, tanto comunque pare che sta funzionando bene, sta funzionando bene anche perché è stata fatta una modifica su alfocatore d'antenna, perché senza quello non c'è la gestione, non lo so perché. Ho dovuto, diciamo, mettere una fitta sul professore, e ricordato tutto, e va benissimo, forse non ce ne sono, però senza quello lì, senza quella modifica, ora sì, non so perché, forse c'è qualche danno, non so, è una tonnellata, era difettosa dalla, diciamo, dalla fabbrica, comunque non mi dice, non so. Comunque, guardare la favola non è una cosa che devo tenere, infatti, vabbè, provvisoria, quando più avanti, quando avrò migliori possibilità la cambio, ok. E niente, tutto qua, va bene, poi sto usando anche una parecchietta scarsa di cavolo, sto usando l'ala 48 plus, che è una parecchietta del genere del cavolo, a me mi piace. Però pare che se funziona bene, ho comprato un uomo questo qua. Va bene, Roger, sto facendo qua una prova, sto usando un preamplificato dal mare dello ZHG. Questo va bene, mi pare che sia l'M3, non mi ricordo. 93. Quello grigio, ho capito. Però vado in stelle e va benissimo, non in letta, in aria in letta, non so cosa cavolo c'è, non ho capito. Attaccando il piede. Basta che abbassi anche la pelle, ma chi è? Se c'è, ma chi è? Quella pariccolina sei a posto, non riesco più. Ti volevo dire, Marco, guarda che dai cinesi sono arrivati portati uguale a quello che c'hai tu, digitale, 19 euro, l'uno. 19 euro, non me lo dire. Cioè lo V5R o simile digitale. Sarà DMR allora, 19 euro, Gesù. Altro che Polmar, ciu. Che sito devo guardare, Antone? Nessun sito, devi andare su a fianco, c'è Tavaccato, entri all'interno e c'è scritto Digital FM trasmettitore professionale. Uguale identico a quello che abbiamo preso tu, gli stessi canali, uguale, gli stessi pulsantini al fianco, due arancioni, eccetera, eccetera, quindi è uguale, non c'è un vero. Adesso appena il primo, vado e me ne conto due. Mamma mia, se così mi taglio le palle, guarda. quindi da a fianco a Ocean, come si chiama quello? Muraia, ok. Quando posso andrò a vedere? No, io crevo robot trader, roba da eBay, crevo. Sono rimasto anch'io, se guarda, stavo per prendermi al volo, però non mi sono fidato perché già lo sai con la carta, vorrei che ti puoi fidare a prendere una cosa del genere. Sempre lo riprendo in contanti, hai capito? Perché c'è quella che sta pigliando roba, mobili, eccetera, eccetera, e quindi se adesso lo buttavo a tutti, capito? Sempre lo prendo in contanti. Sono due e mi ritengo divisata quei due. Tanto sono c'è scritto digital, FM professionale. Capito? Stavo pensando comunque una cosa, Antonio, che per me sarebbe un problema programmarli, perché del digitale non so niente. Infatti per quelli che avevamo noi, io avevo scaricato il programma, no? Anche se non avevo capito, ho dato un'occhiata al programma e c'erano un bel di voci della sezione digitale, la sezione analogica vabbè è facile, è come tutti gli altri, ma quella digitale voci che io non conoscevo, che non so assolutamente cosa siano, in più sono tradotte mezzo dal cinese, quindi figurati cosa c'è. Per quello io avevo preferito ordinarli già programmati dal venditore, capito? Già programmati, cioè accendi e li usi. Comunque interessante, buona saperci. Tanto mi devo stare a programmare io, per questa lascio quella che c'è, tanto se è stato è 462, 125, c'è poco da sbagliare, sono tutti così, quelle apparati che sono di là, quindi io lascio la frequenza che c'è, non me ne fate proprio niente, digitale non è che ti rompo le balle da nessuno, in analogico magari è una cosa diversa, però quando vai digitale va benissimo. No, ma dico, usarlo sul 462 sarebbe cosa criminale, scatterebbero le manette lì. Vabbè, importante, l'importante è non farsi beccare, così è. Appunto, esatto, sì, quello ti voglio dire. Se lo uso, lo uso per fare antenne, non è che lo uso per fare altro. Me lo metto nelle dentro, come si chiama, anche perché mi sto rovinando quei portatili mettendo dentro quella sacchetta, ogni volta che li trovo fuori, quando faccio qualche tatuaggio, mettendoci tutta quella roba che ho, si graffiano e quindi mi sono rovinato, capito, i portatili. È un peccato, invece lascio quelli di plastica a fanculo, se si rovina, si rovina quelli, questa diciamo vero, se ce ne butto una mondezza che si affrega. Dopo che costano, ne vale anche la pena. Ne prendo due, la prendo. Tanto la frequenza sono sicuro che è quella lì, 462-125. L'imposto come si chiama? Canale 7, 8, quello che è favorito, usando da tutti. Che potete utilizzarli. Magari funziona anche meglio dei PMR, per me, niente di strano, portano anche di più. Uia, sente quasi più il televisore che la voce tua, Antone. Leia, invece stavo guardando i Baofeng BMR, ha la stessa forma dell'altro, però c'è Motorola compatibile, sì, non ci crederò mai. Vabbè, vari modelli, ma poi questo, a parte che sto digitale, le voci sono tutte robotiche, vuoi mettere con la bellezza della modulazione analogica, già ti ricordi, no? Che differenza c'era? Non ricordo, non è che non lo ricordo. Quello che costa? Ah, che bene, se 19 euro davvero di più. Un lucano, se vai al bar, 19 euro ti partono 5 minuti. Hai capito? Fai 3-6, altri 2G, 19 euro non ci sono più. Quindi a un certo punto me li prendo per me. Piccato perché sono digitali, non per altro. Sono sicuro che sono analogico digitale. Senz'altro, sono precisi a quello che c'è avevi tu, ma uguale, diciamo, uguale, identico, identico, identico, identico. Ma mannaggia, non potevi fare una foto col cellulare? Come me la mandi però? Tu non ce l'hai WhatsApp, nemmeno io più, l'ho tolto perché con l'aggiornamento a Android 9 era instabile. Instabile, sì. Il programma si terminava da solo, meno, non lo so, un casino, questi, ne ho le scatole piene di questi computer, cose, mamma mia. No, proprio solo tramite messaggio, limite, non male, perché ti voglio la foto, ti mando. Perché ho detto il telefonino, ho preso il K4, l'altro, hai capito? Perché il primo ci aveva il vetro sfasciato e allora l'ho portato dal tecnico, il tecnico l'ha cavato piedi e mi ha detto, dice, fa una cosa, dice, Antone, dice, provo a togliere due o tre programmi e vedi come si comporta il telefonino. Ho fatto così, ho tolto il programma tutto che c'era della team memorizzato, cioè le app, le ho tutte eliminate e ho lasciato le altre. Il telefono è perfetto. Come agganciavo la sim diventava bollente, neanche la bella ghiacciata sopra gli faceva nulla, figurati. È andato in titolo dopo 3-4 mesi, mi figurati. Eia, aspetta. Allora, ehi, sto leggendo cose con questi baufeni di MR che poi non è compatibile Motorola, vabbè, è troppo lungo il discorso, dai, fai girare che mi piglio questo schifo di caffè, che uno schifo, ha fatto mamma il caffè, ha sbagliato il caffè, ha preso quello che è rimasto aperto per due mesi, pari, sembra sta di spazzatura, che schifo. Ecco, è andato al basso, avanti, usino, tanto. Francesco, ci sentiamo, dai, alle prossime. Buon proseguimento di serata. Antone, stasera per puro caso ho acceso, ho fatto una spazzolata, c'era appena la propagazione FM, sempre di fuori, no, Francigi. E poi su 10 ho sentito Giulio, ci siamo beccati per caso, abbiamo scambiato le chiacchiere, è entrato anche Luigi Vulcano, abbiamo fatto prove con un baracchino che aveva lui, abbiamo dato dei controlli, e vabbè, abbiamo chiuso, più tardi ho sentito Gio Maria sul 23 con Francesco, poi era acceso qua, ho sentito fischiare ed era Francesco, insomma. E rispetto agli altri giorni, in confronto oggi è entrata un bel di gente. La verità, mia Antone, lo sto facendo poco anch'io perché la passione cala, poi sono un po' fisicamente giù e non solo fisicamente. Capisci a me? Sì, è stata zitta, diciamo. Anche magari si è messo bene, ma comunque sia, mi sto regolando un po', capito? Anche perché con la casa magari... tu vada a il saldo, capito? Quando una volta che fai la spesa rimango un po' spaventato, perché altro non sai che faccio figure di merda, quindi sto facendo 10 euro a volta, capito? Per sicurezza, e se comincio a fare magari la sola 50 euro, cazzo, mi tocca parlare un volta indietro, già lo faccio a fare il mio figure di merda. Stai parlando della carta, quella carta lì, quando ci penso, che poi era inutile anche farne per me, perché non mi sarebbe rimasto nulla in tasca, capisci a me? Cioè, se la facevo era anche per tenermeli io quei soldi, no? Se invece la devo fare per contribuire a casa, non mi resta niente in mano. E quindi, come non averne. Comunque, vediamo adesso. Prima di tutto mi metto in regola con quel foglio famoso ISE, che può servire comunque per cose future. Adesso poi stanno succedendo casini con questo reddito di cittadinanza, stanno scovando furbetti, tipo uno che, aspetta, dov'era? Che lavorava, aveva un lavoro, però faceva finta di essere nulla, di non fare nulla. La fidanzata ha denunciato, e chissà quanti ne stanno beccando, che non ce lo dicono. E ti volevo chiedere, Antonio, ma Simona come sta? Meglio sta ingrassando, meno adesso. Sta mangiando 3 volte al giorno, c'ha le gocce per mangiare, hai capito? Deve pigliare le gocce mezz'ora prima di mangiare, in modo che abbia l'appetito, capito? E quindi sta meglio la fretta. Grazie a Dio sta meglio. Comunque puoi fare una cosa, se ne hai voglia di farla, quello lo puoi fare anche adesso, devi andare in via Zara e fare la richiesta del resi familiare, si chiama, tua madre, non tu devi farlo tua madre, e in pratica ti danno quasi 500 euro, ti danno, hai capito? Perché Giovanna l'ha fatto e gliel'ho dato subito. Ma è buona sapersi, dai, controllerò anche i requisiti, insomma. Tu viaggiare vicino, mi qua. È vicino. Bene. Ciccio, che ora ci sono fatto? Tutto a vedere. Vabbè, oggi già ho fatto cose utili. Messo a posto in cucina, cucinato, eccetera. Mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli pure, che ormai li sto tenendo un po' corti, non cortissimi naturalmente, a me essere calvi pelido non mi piace, poi sarei, già sono brutto nei capelli, figurati pure pelato. Ti mando da quel parrucchiere che c'è in realtà, quello che sembra Finocchio quando parla, invece cazzo c'ha due, si va a generare, hai capito, un maco, mi ricordo che tanti anni fa, quando ero alle medie, in questa zona tipo Lunesole, via Barzini, magari sto sbagliando io, c'era un parrucchiere forse per uomo, si chiamava Salomè il negozio, mi pare che c'erano, che lo gestivano dei gay, ma stiamo parlando di 1000 anni fa, adesso ne ho anche un lontano ricordo. Vabbè, poi sai, ragazzini subito hanno c'è da girare la lama del coltello nelle carni, sono sempre pronti. Ma è stato quello da quel nome, secondo me è uno dei migliori, ha iniziato in Piazza d'Italia, lo sai, se faceva la i capelli alle ragazze per visitaria a Sassari, capito? Quando c'era allora Pietro Atene, mi parlo di tanti anni fa, quindi figurati tu, e mi voleva andare a me, dice, guarda, se vuoi che ti faccio fare i tranquilli, a me, e poi che cosa? Si parlava solo meglio, vai, come ci parlava solo meglio, ho frutini, che quello vuoi, non si entra nei cappelli, mi fa qualche altra cosa, gli ho detto, la parrucca sotto. E ti fanno i cappelli come me, ma il gioglio? Allora, l'ho conosciuto solo meglio, non è che non l'abbia conosciuto. L'ho conosciuto perché le ragazze le accompagnavamo io e Coso e Pietro, lì da Salome a farsi i capelli prima di fare la selezione per pubblicitaria, figurati tu. E ci ho parlato anche a Coso, Marisa, la sorella di Adriano Lando, sì, se non mi ricordo male. Figurati tu. Ha fatto la selezione anche lei pubblicitaria, dopodiché si sono arrivati tutti e due, va a far culo. È successo quello che è successo, uno è morto, l'altro è per i fatti suoi. Quindi quel tipo di mestiere di fare la gente teatrale è rovinata perché le portavano la roba, capito? Non per altro. Se fossero stati, cioè come avevamo prima, sarebbero stati tranquillamente vivi, vegeti, eccetera, eccetera. Ah, ma la sorella di Lando era quella biondina, che una volta eravamo andati a casa tua e c'ero io, Sandro Satellite, e tu, no? E lei aveva un giubbotto in pelle, e lei è, o sto ricordando male? C'è lei. Interessante, era bellina. Adesso quanti anni avrà? Adesso, vabbè, è una donna matura. Vabbè, ma già aveva dovuto, cioè, capito. Frequentava le discoteche, poi eccetera eccetera, ha fatto la pratica, cioè, c'aveva da il cervello più che altro. Anche quell'altro si era rovinato, cioè, ti ricordi? Quello che mi ha fatto quella persona lì vicino a casa di Adriano. Io non mi ricordo il numero attivo adesso. Aspetta, non ti seguo. Quello che mi ha fatto quella cosa vicino a Adriano. No, quello che mi ha fatto quella persona vicino a casa di Adriano. Se ti ricordi bene, vicino a casa di Adriano. Lì, al monte, in pratica, quella mi ha fatto una persona, l'ha ammazzato. Adesso mi ricordo il nome attivo suo, come l'ho visto, se no forse 7 anni fa, che era uscito dalla galera, l'omicidio. No, non ti seguo Antonello, no. Ma io non so nemmeno dove abitava me, quello che hai detto tu, Lando al monte. No, poi sai cos'è, si è amplificato, sento la TV, ti capisco poco, mio Antone. Se potessi abbassare un ciccinino. Adesso si va bene così. Adesso è un bijou. Allora, di fronte a casa di Adriano, se ti ricordi bene, parlavo un CB, se ti ricordi, era appena Gassottello, in pratica dalla parte opposta di Adriano, come si chiama? Adesso mi viene in mente il nome, se ti dico il nome te lo dico di subito, te lo ricordi. Sono in pratica avevo ammazzato una persona per droga, hai capito? Fanculo, mi viene in mente il nome, ce l'ho saputo da lui, ma non mi viene in mente il nome. Ma e quanto tempo fa è successo questo? Decenni o recente? No, vabbè, se non ti ricordo il nome, no, poi il baracchino e gli ho. Oh, non sai cos'è, poi io tutti questi che nomini, io non manco me li ricordo. Adriano, vabbè, sì. Anche altri nomi, dai, i pochi che ho conosciuto mi più che altro ricordo. Insomma, un CB aveva fatto questo, così è. Sì, aveva fatto questo, sì. Non mi viene in mente il nome, ragazzi. Non se ricordavo, non mi viene ben male. Quando vede, sulla punta della lingua. Vabbè, comunque, se me lo ricordo, gli ho detto. Hai capito? Capito, no? Sotto che fa da Diana, parlavano tutti i giorni assieme, eccetera, eccetera. Io ti parlo degli anni, mi sembra 90, qualcosa del genere, no, forse di più, 90, 90, 98, 2000, qualcosa del genere, c'era stato. Una storia così. Figurati, allora, questo, lui ci aveva in pratica la casa lì a Trentino, andava a Trentino parecchie volte e modulava anche da lì. Dopodiché è sparito tutto un tratto e l'avevo visto in giornale, figurati. Ah, boh, io ero andato via dalla frequenza del 94-95 massimo, perché come si era sciolta la greffetta nostra, sai, sull'uno sotto noi stavamo, no? Come un po' si è sciolta la greffetta al baracchino nostra, alla fine ho lasciato. Vabbè, se parli del 98 io non ne avevo già tolto tutto. Cose capitano, tutte, anche nelle buone famiglie, in tutte le città, in tutte le classi sociali, cose capitano. Quello sì, a volte le persone cambiano, ma quando lo aspetti, capito? Purtroppo capita così, ma pensavo magari che quella, e invece sono trovato tutto un'altra cosa, il discorso è quello lì, vabbè, pazienza, vabbè, non mi viene in mente il nome, ma se mi viene in mente già te lo dico, ci vediamo. Era parecchio, non lo vedo, figurati. Un giorno ho visto io l'attore sagittario che in pratica mi ha salutato, mi ha detto anche la bella, figurati tu, dice, sono uscito per me, insomma, ha detto. Un coniglio adesso. Ma tu mi parli del monte, ma cos'era monte alto, monte basso? Il monte è grande, mio Antone. C'è monte, monte. Vediamo anche il monte basso, presa attenzione. Capito? C'è quella palazzina, abbiamo anche il monte basso che poi da lì vai direttamente a... dove abitava Adriano, te lo ricordi, sì. Via Sorso. C'è quella viuzza lì. In pratica lì è successo quel fatto. Lui abitava proprio lì di fronte. Buio totale, a parte che non sapevo nemmeno che Adriano abitasse in via Giorgio, Antone. Io ben poco ne ho conosciuti i cibimi, non ero molto incline a conoscere a destra manca, poi ero piccolino, avevo 13 anni, 14, insomma, tutta gente sconosciuta, quindi figurati. E poi il mio carattere è così, non è che sono che va a conoscere a destra a manca. Tu sei più aperto di carattere. Infatti tu conoscevi tutti. Credo che non ci sia qualcuno che tu non abbia conosciuto. Come ti le conosci, dici, tu figurati se adesso io dovessi per dire, salutarmi qualcuno, non me lo ricordo più. Perché non c'ho, cioè, una volta che passano 10-15 anni, cosa del genere, la prima mia non te la ricordi più. Da poco mi ho visto a coso, Alessandro, quello che abitava vicino a casa mia in via Carbonazzi, abita tutto da lì, la sorella ormai si è sposata, la ricordo come faceva ciucucciu. Il fratello l'ho visto lì dal medico, l'ho visto. Ma tu non sei Alessandro? Dice sì, sono io, mi ha detto. E tu ti dico di me, dice, non sei Alessio, tu sei e tu mai barattino non c'è più, dice no, mi hanno venduto tutto, dice i miei fratelli. Ogni volta penso a te che sei stato Marco, gli ho detto. A posto tu l'avrei ammazzato, gli ho detto. Perché la roba mia, anche se io parto per dire per lavorare fuori, mica si tocca a casa, ce la fai. Allora me lo siamo venduto tutto. Ehi, certi fratelli sono così, ciò che è tuo è mio, capito? Bene, tu dici, ti ricordi? No, nulla, non ricordo nulla, Ma mi sto chiedendo io cosa ho fatto in tanti anni di 27, dov'ero? Sui canali sotto ero. Tanto era tutta una battaglia sui canali normali, c'era ogni sera un battibecco, CB, moglie di CB, con, già lo sai, no? Mamma mia, una cionfa. Vabbè. Così è in ogni dappertutto, posti di lavoro, condomini, tutto. È sempre così. Guarda, per il bisticcio che c'è stato il 27, in pratica è stato Giannina con Claudio. Il più bello è stato quello, perché sono stati 48 ore svegli tutti e due, affarrandosi a baracchino, poi sono sceso io abitavo in Pirizzido, lui abitava a Vialghero, mi telefono, dice, vieni a tornare a casa, dice, poi domani mattina, siamo assieme, andiamo al bar, ho detto, va a bar, e ti lascia appena, ho detto, conosco Claudio, ho detto, non è così, no, vengo anch'io Giannina, vengo io, voglio parlare con lui, devo fare quello che devo fare. Intanto è venuta Giannina di Albata, ha avuto un coso, io stavo vedendo, non ce la facevo più, figurati tu in quel bar che c'è via Napoli, ci sono incontrati, mi sembra che adesso mi consigliano 9, siamo andati alle 6 e mezzo, non mi ricordo ancora, 6 e mezzo a mangiarci le paste calde, tu immagini la pasta calda, cazzo, la mangiava qualche faceva diarrea, tutta la notte non lo svegli. Le paste appena uscite dal forno, mamma di turchi, dalle a me, altro le diarrea. Quello è stata la cosa più bella che c'è stata adesso. La fanatorio, che poi siamo ancora a gamba, che abbiamo cominciato a bere, va a far culo. Immaginati, ma adesso è mezzo cazzo la pasta, avevo mangiato. Uia! Io, Angelo, Giannina, c'era addirittura Andrea Maricone, c'era, figurati, abbiamo dormito, dormito la civetta, tutti svegli, tutti e tre, io, Andrea Maricone, Angelo e Giannina, tutti e quattro eravamo lì a casa sua. Alle orge ti sei dato, ah? L'orgia c'è stata, no? Di fronte a casa sua, perché io ho portato il 680 addirittura. Allora, ti ricordi che c'erano quei telefonini, cordless e cose del genere? E mi divertivo io andare in quelle frequenze, già te lo ricordi, partiva dalle 27, dalle 29.7 fino ai 45. E abbiamo beccato la frequenza, no? Si sentiva proprio l'orgia. In diretta, già mi faceva, ci sono i miei figli, c'è Marco che è piccolo, e gli facevo aspetta Gianni che ci divertiamo, cazzo, che vediamo, adesso lo chiamo, appena l'ho chiamato brutto finocchio, ho detto, non ti vergogna che stai facendo queste cose davanti a tutti. Sì, diamo le ricordo, ma mi pare che non erano nemmeno omologati, no? I telefoni 4649, ricordo, guarda, è passato troppo tempo, quindi non lo so se erano omologati. Allora c'erano 4649, no, perché due frequenze, ricezione e trasmissione, 4970 oppure 49 1,8 MHz, lo sai. C'è sul vecchio catalogo Integ dell'84-85, certi avevano 49 e 1,8 MHz, sempre in FM. Stentavo anch'io a crederci, ma non avranno sbagliato a stampare, invece era così. Tanto la portata era limitata, la ricezione era limitata, quindi non è che potevi sentire roba HF, capito? E poi con il PRC10, ti sintonizzavi, no? Giusto, che potevi fare? Oh, sono scappellato! Specialmente i baby... quelli a fare per ascoltare i bambini quando piangono, cazzo, quella era una cosa, la più bella cosa che c'era, ti mettevi lì a ascoltare, cazzo, ogni notte sentivi il padre, e come dire, il padre e la madre che andavano a fare il ciucucù in diretta, cazzo, il bambino piangendo. Ma per caso stai parlando dei baby monitor dell'epoca, quelli che funzionavano sui 27? Certe volte i genitori avevano la culla nella stessa stanza e sì, probabile, si facevano ciucucù, tanto il bambino non lo capisce anche se sveglia, no? È troppo piccolo, non può ricordare. Poi che divertimento. E poi i 900 MHz analogici, ancora, magari non riuscivi a parlare, però potevi ascoltare. Poi è arrivato il digitale e ha rovinato tutto. Vabbè. Il tramonto di un'epoca è stato. Ma io lo so, 29,7 comunque la frequenza, la presa a pezzi. Di quei baby monitor. Non te lo ricordi che col cavo, col 68, li sentivo a 100 metri di distanza, anche più, non solo l'altro. Arrivavano 9,10, 9,20. Allucinante era quel segnale. Ogni sera si sentiva, ogni sera. Ah, tu stai dicendo il baby monitor 29,7. No, io ne ho sentiti anche 27 sui canali alfa, proprio sui canali alfa, tipo 11 alfa, 19 alfa, forse era roba fuori standard o cinese, che ne so io, roba non omologata, che ne so io. E c'era anche lì, c'era, già lo ricordo anch'io, già me lo ricordo, ma le risate, ogni notte c'era da ridere, c'era, ma ogni segnale mi vedi zitto, era una cosa allucinante, ti sentivo il tutto di più. Poi quando sono arrivato qua sentivo questo baby monitor che era una cosa allucinante, era veramente forte, no? Evidentemente questo si è installato qualche stazione base, qualcosa del genere, in modo da sentirlo anche quanti possibile nel posto di lavoro, quello che so. Ma era forte. Poi adesso è sparito. Ma magari era anche nel tuo palazzo il baby monitor, oppure tu l'hai sentito anche muovendoti a distanza? Quando ho cambiato casa, la verità, io andavo su quella frequenza lì e sentivo il baby monitor, arrivavo a 9,20, quindi ho detto non può essere, cioè, due cose diverse, evidentemente questo si è salvato qualche cosa, tipo quella tipo di cosa, Apex, hai capito? Perché con la antenna esterna è in modo da tenere d'occhio il figlio, cosa ne so io? Sì, può darsi che fosse qualche baracchino modificato, perché per arrivare così forte, portatile, col Vox, ma portatili CB col Vox no, non ce n'erano all'epoca. E tuttora ce ne sono pochi, aspetta che mi chiamano. Eccomi, mamma ha chiamato mamma, chiamato. I servizi, un po' su tutte le frequenze adesso, non c'è più niente da nessuna parte. Ma ricordo anche che sui canali di sotto, probabilmente su quei canali autorizzati, no, per gli scopi, adesso non mi ricordo dei punti tot della concessione, c'erano quei ragazzi che lavoravano sui carri attrezzi, no, che gli muovevano le macchine. E poi ho letto come li ha intercettati, subito stava sul canale loro a sillarli. Io come sentivo a pelo maschile, era sempre lì, capito? E quelli, a loro serviva per lavoro quel canale lì, capito? Anche perché erano canali, diciamo, un po' riservati agli scopi. Adesso non me li ricordo più, ti ricordi, Antonio? C'era vigilanza in mare, vigilanza trasporti, attività sportive, ambulanze, già hai capito. Sono gli stessi canali che poi avevano messo sui 43 MHz, che sono falliti pure. Mi ricordo. se ti ricordi bene, ho installato io i baracchini a Di Matteo, ti ricordi dove veniva il negozio di abbigliamento? Quindi parlavano, avevano quattro negozi, erano collegati tutti e quattro assieme con l'antenna esterna. Quindi parlavano tra loro nei canali di sotto, avevo preso il baracchino e l'avevo modificato, avevo fatto 34 sotto. E in pratica, se non ricordo male, avevo messo il canale, non mi ricordo se il 5 o il 10 sotto, non mi ricordo. E parlavo spesso io con loro, con quelle ragazze che erano lì, capito, le commesse. Meglia. E di tutte le ragazze conosciute all'epoca, coetanee, chi ti è rimasta più nel cuore, a parte Clementina? Ma sai che la verità non ho più, cioè non ho, mi farebbe piacere vederla o sentirla, la verità. Non c'è manco su internet, figurati tu. Quindi non lo so. Evidentemente ha voluto fare la vita sua, cosa ne so, magari è fuori, no? Cosa invece ci vedo ogni tanto in Unica, di cosa? Di Giaguaro. Vabbè, ho iniziato su internet, ma non è che ci parlo, è diventata strana, è diventata, capito? D'accordo, su internet male che non si voglia toccare, capito? Quindi a un certo punto a me Facebook non, cioè cambia le persone, capito? Non c'è più la l'approccio di prima, hai capito, per poter parlare, sembra che mi sia chiedendo chissà che cosa, lo stipendio, la pensione, quello che, e quindi a un certo punto ho mollato, ho fatto il culo, ho detto, la casa dove stare, gli dico ciao, cominciamo, guarda che se ti serve qualcosa, che ama, eccetera, eccetera, e mai avessi detto, grazie, hai capito. Dice, io ho gli amici miei su Facebook, c'ho Instagram, allora fatelo fare in culo tu su Instagram e Facebook, gli ho risposto così, a un certo punto. Frequenta quella cosa lì, gli ho detto, guarda che fai, trovando una fine di checco, gli ho detto. Io ho detto, quella fine non la faccio, perché non me ne fate nulla, né Facebook, né Instagram, e tantomeno tutto il resto che c'è, non me ne fate nulla. Se una persona a me mi telefona, che mi chiama, mi chiama per telefono, non su Facebook. A me il Facebook proprio non me ne fotte, non me ne fa forte di meno. Purtroppo certe volte si alzano anche troppo, capito? C'hanno le amicizie scelte, certe passano in secondo piano e così la vita. Aspetta, e controllo, sto trovando quella tabella di canali per le attività. Vabbè, aspetta un attimo. Comunque, secondo me questo coso di... è un casino, perché anche tra parenti, cioè quando fai magari gruppi, cose del genere, tra gruppi subito, per cazzate. È molto peggio del baracchino, quindi a un certo punto meglio non andarci nemmeno a scriversi. Meglio cancellarlo e tutta questa storia qua. Tutto deve stare a passare le foto, a vedersi tutti i cosi che fanno di casa sua, c'è quello che si mangia la salsiccia, c'è quello che si fa un come si chiama, eccetera, eccetera. Tanto regali non te ne fanno e non ci vuole rimanere con la lira, quindi a un certo punto sono tornato in culo, Facebook, Instagram e il resto che cazzo ha organizzato. Ehi, prenditela con quello, come si chiama quello di Facebook? Lo nominano ogni giorno e non mi ricordo mai il nome. Ah, in una mano, quello senza soldi, capito, ha la fame. Zuckerberg, così è. Esatto, sì. E ha trovato il fece, capito? Il discorso è quello. Ha trovato il fece e quindi loro ragionano così, quelli che entrano su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. C'è che si fa le fotografie, c'è che si fa i filmati, c'è che si fa, come si chiama, per farsi vedere, ma vi la fai. ma ce la faccio, cosa parliamo, una vita leggera, certo. Saremo, quello va bene, mi solamente per le, se vuole fare qualcuno come arrivano di solito quei filmati, se vuole andare a volerli, paghi, e te la guardi la ragazza, basta, solo per quello va bene. Allora, mio, ho trovato quei canali là. Erano sei canali, erano addetti alla caccia, pesca, sicurezza e soccorso sulle strade. Il punto non c'è scritto però. Poi altri sei canali in ausilio alle imprese artigiane, agricole e industriali. Poi quattro canali per sicurezza della vita in mare, piccole imbarcazioni e stazioni base nautiche. Poi quattro canali per attività sportive ed agonistiche. E stranamente i taxi a Sassari erano su una di quelle frequenze, che erano riservate ad attività sportive ed agonistiche. Strano, doveva essere per imprese artigiane, agricole, industriali, quella roba lì, credo. Poi l'ultimo era quattro canali in ausilio, attività professionali sanitarie tipo ambulanze, quelle cose lì. Per ambulanze non sono mai state, comunque l'ambulanza non siamo di 43 mega, se dietro di quelle che tu. E penso che ce l'abbiamo tuttora. Non sbaglio, c'era il soccorso salto, non lo so, forse. Mi sembra il soccorso salto, adesso non mi ricordo, i 43 mega. A parte il primo soccorso. Gli altri usavano tutti la frequenza V e vabbè, adesso non stanno pesando niente, usano il telefonino, la chiamata digitale tramite il 118 e basta, non usano altro. Che poi c'è anche la chiamata addirittura nella frequenza del 118, adesso non ricordo che 6400 qualche cosa, adesso non mi viene in mente. Fanno prima a usare coso, fanno prima, come si chiama? Porca mignotta, non mi vengono i nomi, non WhatsApp, quell'altro che puoi fare i canali privati, non ammala Messenger, cosa ne so io? Ho dimenticato anche il nome. E cos'è questa? Stavo cercando concessione CB ed esce concessione cimiteriale, servizi cimiteriali. Quindi come dire che la 27 ormai è defunta. È un messaggio subliminale, mi hai capito? Perché mica è defunta la 27, grazie a Dio. Stanno volentando fuori, ho visto che hanno mollato parecchia gente, hanno mollato il cibitato e quindi non sta pesando. Evidentemente è molto meglio baracchino. Ogni isola è a far vendere, ma ogni giorno c'era una farattura, figurati. Tu sapete, non c'è più nessuno, c'è rimasto solamente uno da Alghero che entra. Mi sembra un altro di Oristano, basta, sapete, non c'è nessun altro in cibitato. Tutti gli altri sono siciliani, calabresi, tutti per affari loro, i romani altrettanto, i milanesi altrettanto, quindi non ho finito interessante perché ho la carica, la verità, quindi non me ne frega nulla di usare il cibitato adesso, a parte che succhia come un coso, succhia un bel giga, sembra che abbia messo questa che cosa, e poi ti chiedono un sacco di cose, ci sono normative adesso, se hai 18 anni, non devi parlare male, eccetera, sai quanta gente c'è, con cosa? È pieno di gente che non ha eliminato, tutti con la blacklist sono. Guarda, anche stasera su Italia, che Italia era? Italia 8, boh, c'erano 46 persone, perché due stavano battibeccando, no? E tutti gli altri ascoltando il battibecco, e alla fine si stancheranno, come che si è stancato il baracchino 30 anni fa, per i battibecchi, coso, fazioni, capito? Vabbè. così gira il mondo. Se tu guardi nelle mie triste, è pieno di gente con cosa di vieto. Figurati, me l'avevo fatto a me una volta, per 15 giorni me l'ha fatto da quel brasiliano, e manca non l'abbiamo fatta pagare dopo 15 giorni io, e tutta la sera cazzo mi facevo ho preso, ci ho messo un blacklist, ci ho messo alla fine, ci ho messo tutti quelli che c'erano di lì, blacklist in fila, ma non ho potuto entrare in Italia per almeno 15 giorni. Oh, brasiliano o portoghese era quella volta? No, brasiliano proprio, che poi cazzo c'era mezza 27 che è entrata, la verità Sassari, è entrato Walter, è entrato Vittorio, è entrato con l'ultima volta dice ma andava a fanculo, mi ha detto cazzo, ma quanta gente c'è che sta ascoltando qua, gli ho detto, dice siamo tutti salvi italiani, Antonio mi ha detto, dice ma andava a fanculo questi, non ti fanno parlare, sono come i tedeschi, la stessa cosa, lui ci sono gli spagnoli, guarda, tu parli con loro e fai un QSO, gli unici, e basta. Ah, poi in Brasile, hai visto come sono messi? Vanno a scrivere sulla bandiera Ordem et Progresso. Sì, in Brasile casomai devono scrivere Ordem et Disordem et Regresso. Vabbè, sono tutti messi male tra lì, Argentina, Brasile eccetera eccetera, lo sai, no? Come mai sono messi male tutti? Non c'è lo stato in quella cosa. In America Latina purtroppo si sta diffondendo il corso. Non l'hai visto? Oramai l'Argentina è del full. Eppure sono dicevi, la maggior parte sono tutti tedeschi che abitano di lì in Argentina, lo sai già. Quindi loro c'è me, loro nascosto c'è me, loro tedeschi, cioè loro che hanno rubato in Italia c'è, è tutto lì. Hai capito? Quindi è diventato tutto un troiaio adesso. Non ti puoi fidare più di niente, capita così magari in tempo di 6, un anno, 7 mesi con la gente ti trovi cazzo incasinato con la politica. Come stiamo arrivando noi, stavo uguale, mi arriverebbe anche lui in quella situazione. Scontiamo così, hai capito, per la politica. Uno di libera, tac, piglia a fare cose, ma al contrario, ciao, buonanotte, è rovinato tutto. Stavo cercando le foto della concessione vecchia, ma non... forse c'era scritto proprio il punto che potevi usare. Cos'era il punto 8, no? Ah, poi sulla concessione mia c'era scritto che potevi usare esclusivamente, dice, le seguenti frequenze, arrivavano fino al 23, era dall'1 al 23, non c'erano ancora, non li avevano autorizzati i 40 canali, allucinante. No, non ne avevano utilizzati, no, era la numero 23, ma poi perché a me è successo una cosa del genere, era la numero 23, infatti l'hanno trovato i 40 canali, mi inchiappetta la mamma, prego, mi salvare, entrate pure all'escopo, se c'era Zucca, Piras, hai capito? Cazzo, non ci vuole anche, io mi sono fatto che alle 7 e mezzo le mutante, mi sono entrato i pantaloni che mi vedeva la camarella come quella dell'Alzheimer. Mamma mia, che incubo, mamma mia. Vabbè, da, ti è andata sempre bene comunque. Sì, a parte 6 mesi sono stato la licenza, che è 80.000 lire verbale. Quello è un fidanzato concorso, se ti ricordi bene, comunica la figlia di Giaguara. Sono 4 mesi che parlavamo, allora certo non c'era. Avevamo a baracchino di nascosto, cambiavamo canale, andavamo nei canali sotto. Hai capito, diciamo che 500 euro, se ci avevo, mi sembra, un 200 canali, se non ricordo male. Bei tempi, ah. Allora, la mia era dell'85, la concessione, perché nell'84 ero entrato ad agosto, non conveniva per pochi mesi fare la concessione, abbiamo aspettato l'85. E ancora 23 canali, caspita, bobo. Poi i baracchini potevano essere 34 canali, ma potevi usare solo i 23, non bisognava usare quelli di sotto, dove poi non c'era nessuna attività, tranne i carri attrici che ricordi, poi non so se ce ne fossero altri. Per quegli scopi speciali, cosa ti risulta a te? Cosa ti ricordi? Io ricordo solo i carri attrici, dove andavo a Falcone.